Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buon pomeriggio e bentornati ai Figli di Enea. Parliamo con voi di Iran, anche di attualità, perché la nostra ospite è un'italiana iraniana. Sara Ejazi, cittadina italiana iraniana, nata in Iran, antropologa, scrittrice, giornalista, anche docente universitaria. Benvenuta. Buon pomeriggio. Il 21 novembre ha partecipato a Visionary Days, una maratona di confronto collettivo con 2500 giovani under 35 sul futuro. E il tema di quest'anno erano i confini del nuovo mondo, confini territoriali, sovraterritoriali, visibili o anche invisibili. Sì, diciamo che ho aperto un po' le danze di Visionary Days, questa manifestazione tra l'altro veramente molto bella, interessante, tutta portata avanti da ragazzi giovanissimi, quindi veramente è stato molto motivante. E ho aperto appunto il tema dei confini, provando a ragionare intanto su come è costruita una nazione, quindi da cos'è che nasce l'idea di nazione, e poi dopo come in realtà viene decostruita nel nostro tempo. Quindi ho ripercorso un po' questo tema e poi invece come oggi questi confini nazionali siano di fatto superati, no, da tante pratiche che noi portiamo avanti, l'essere in più posti contemporaneamente, il poter parlare e comunicare da un angolo all'altro del mondo in pochissimo tempo, cioè in simultanea, e nonostante questo continuiamo ad avere problemi, no, di attraversamento di confini, quindi persone anche che muoiono magari perché attraversano un confine, perché attraversano un mare, anche perché attraversano, perché non, identità di genere, no? Quindi questi confini che in fondo noi ci portiamo dal Novecento, che poi è il secolo in cui gli stati-nazione si fondano e diventano, diciamo, proprio delle entità riconosciute, e che ci portiamo dietro appunto un'eredità che di fatto oggi non ha più tanto senso, più che altro forse non è più tanto utile. Love is like a sin, my love, for the ones that feel it the most. Look at her with her eyes like a flame. Prima della pandemia era immaginabile in modo veramente semplice che cose, oggetti, persone e anche idee viaggiassero da una parte all'altra del pianeta senza nessun tipo di reale, di confine reale, no? Noi se ci guardiamo insomma adesso, in questo momento addosso, abbiamo indumenti che arrivano dalle Filippine, dalla Turchia, abbiamo fatto colazione con alimenti, no, che arrivano dall'America centrale, e poi abbiamo usi e costumi che abbiamo adattato nel corso dei secoli, prese da popolazioni lontanissime. E quindi veramente diventa difficile. Poi siamo attaccati a delle narrazioni appunto di Stato, a delle narrazioni di continente e a poi quelle identitarie, per esempio quando parliamo di Occidente, no? E ci contrapponiamo a un ipotetico altro non occidentale. Quindi credo che la grande schizofrenia che poi è stata sottolineata anche da questa pandemia sia come le nostre narrazioni si sgretolino di fronte a una realtà che è ben altra, a sfide che sono planetarie, a problemi che sono planetarie, e però ci trovano a noi senza strumenti identitari proprio per poter veramente fare un ragionamento a questo punto globale. Cioè siamo globali nei nostri modi di vivere, assolutamente, però poi non ce lo raccontiamo, non ci diciamo la verità. C'è stata l'uccisione di questo scienziato nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, che è stato assassinato in Iran in pieno giorno il 27 novembre. Si crede che dietro l'attacco ci possa essere Israele, e questo preoccupa un po' per gli scenari che si possono creare. Tutti si chiedono se l'Iran reagirà in qualche maniera. maniera contro Israele e anche che cosa farà il presidente che è stato eletto Biden quando entrerà in carica a gennaio. Quando si parla di aver reso Fakhrizadeh un martire, questo fa parte proprio del linguaggio della Repubblica Islamica. La guida suprema ha anche congratulato in fondo la famiglia per la perdita. Per noi sembra qualcosa di assurdo, no? Ricevere le congratulazioni da un capo di Stato per la morte, però di fatto invece in Iran, ecco, questo è tra virgolette normale, nel senso che fa parte proprio della cultura e lo è ancora di più se parliamo di istituzioni e di figure istituzionali, quindi questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa è che l'Iran, io non credo che farà dei gesti di vendetta. L'Iran è sotto assedio da ormai 40 anni e lo è soprattutto in questi ultimi anni, veramente sotto assedio soprattutto economico. E quindi è un paese che si trova allo stremo delle forze e la pandemia da coronavirus non ha sicuramente portato buone novità, anzi l'Iran è uno dei primi paesi fuori dalla Cina che è stato colpito dalla pandemia. Ed è un paese che in questo momento sta vivendo la svalutazione della moneta che probabilmente non è mai successa negli ultimi 40 anni. Veramente le famiglie e le persone hanno perso l'80%, e non sto esagerando con i numeri, del potere d'acquisto. Questo significa banalmente, facciamo proprio un esempio, per andare a fare la spesa, se io compravo con 5, facciamo finta euro, 4 kg di frutta e verdura, oggi io ne riesco a comprare con 5 euro e mezzo chilo. Io non credo proprio che ci siano le forze per un'azione di vendetta. Ci sono però sì forze, tra virgolette, per calcare un linguaggio magari vendicativo, quindi di nuovo di calcare la mano sulle narrazioni, quindi dire ah sì, il martire, allora noi risponderemo perché comunque Israele, il Mossad, eccetera. Ma di fatto questo non porterà, io credo, a un'azione reale. Rimarrà così, non è la prima volta che succede. Ricordiamo che all'inizio di questo 2020 era stato ucciso anche il generale Soleimani, sì. Un attentato di fatto portato avanti da Trump, abbastanza in modo gratuito se si pensa, perché non si stava parlando in quel momento in realtà di guerra e di colpo, infatti se ci ricordiamo a gennaio sembrava che fossimo sull'orlo della terza guerra mondiale, proprio perché Iran e Stati Uniti avevano avuto questo grande problema. L'accordo sul nucleare iraniano che fine farà? Secondo il ministro degli esteri iraniano non sarà mai più rinegoziato. È difficile che venga rinegoziato, in realtà i passi sono stati fatti proprio indietro, diciamo che nel 2015... tra l'altro mi trovavo in Iran proprio in quei giorni e c'era stata il raggiungimento di questi accordi con l'allora presidente Barack Obama e aveva portato questo anche una grande gioia del popolo. Mi ricordo di nuovo le persone per la strada, come sempre succede in Iran quando c'è una buona notizia, si corre per le strade, si mette la musica, persone che insomma si sono messe addirittura a ballare per la strada, questo è veramente anche tipico. E io però credo che sia difficile tornare veramente indietro dopo quello che è successo negli ultimi anni. Poi a giugno l'Iran andrà verso le nuove elezioni, quindi chissà chi verrà eletto, chi sarà il nuovo interlocutore, quindi a questo punto del blocco, virgolette, occidentale rispetto al tema del nucleare. Anche questo sarà da scoprire e sarà sicuramente fondamentale. Ecco, a proposito proprio delle elezioni, quali sono le previsioni che si fanno, se si possono fare chiaramente? Pare che alle ultime parlamentari in realtà abbia vinto l'ala ultraconservatrice, quindi noi adesso abbiamo avuto dal 2013 un presidente che è stato la figura di Rouhani, che era un moderato, era quello che portava tra virgolette nello spazio pubblico la voce dei giovani e delle donne. Però appunto proprio perché il periodo di Rouhani è stato un periodo nefasto di fatto per tante ragioni che abbiamo anche elencato, l'uccisione di Soleimani non soltanto, ma anche il crollo della moneta, il rial iraniana, poi tantissime manifestazioni che dal 2017-18 hanno poi scosso anche le strade, le piazze dell'Iran. Io credo che probabilmente sì, ci sia un turnover di nuovo verso l'ala ultraconservatrice, quindi la vecchia guardia rivoluzionaria. Sembra che non ci sia insomma una forza nuova capace di raccogliere il contento in questo momento. teatro in questi giorni è stata rimandata l'esecuzione, che però sembra comunque imminente, della sentenza di condanna a morte per spionaggio dello scienziato svedese-iraniano Djalali, esecuzione che però, appunto, dicevamo, resta in programma. Djalali era stato accusato di fornire informazioni a Israele ancora una volta. Se venisse ucciso, sarebbe la prima esecuzione in Iran di una persona con la doppia cittadinanza. È un medico, è un docente di un'università di Stoccolma, e tutto il mondo è con il fiato sospeso per capire che cosa accadrà. Questa è una nota dolente, e tra l'altro è uno di questi terreni scivolosi di negoziazione che ha veramente, diciamo, degli scenari che stanno dietro a questa situazione veramente poco chiari. Io stessa ho provato in questi anni a capire, anche perché succede sempre che quando si è in qualche modo una figura che pubblica o divulga, nel momento in cui si torna in Iran c'è sempre un attimo di panico, nel senso che si arriva all'aeroporto e sempre si ha questa paura, poi è una paura infondata magari, di dire: accidenti, magari adesso mi fermano, magari mi arrestano. Tanto infondata non è, visto che accade. Esatto, tanto infondata non è, però io, insomma, cerco sempre di informarmi prima, di avere anche un rapporto con il consolato abbastanza, diciamo, di cortesia, quindi, insomma, scrivere mail prima di partire, ma insomma per capire. Certo che non serve a nulla, credo, però io onestamente rimango sempre molto cauta su queste figure. C'è anche la situazione dell'avvocata iraniana, attivista per i diritti umani, Nasrin Sotoudeh, che adesso aveva usufruito di un permesso perché era malata di Covid, ma invece deve tornare in carcere. Anche questo caso è seguito dalla comunità internazionale. Non riesco a capire come la società iraniana percepisca questi casi. Il popolo iraniano, le persone, non usufruiscono degli stessi canali di informazione di cui si usufruisce qua in Occidente. Fondamentalmente tanti siti sono oscurati, tanti social sono oscurati. È vero che se si ha attraverso un VPN si può in qualche modo accedere, per esempio, a Facebook, eccetera, però non è proprio la stessa cosa in realtà. Quindi le informazioni su questi temi sono informazioni che circolano soprattutto fuori dai confini della nazione, mentre invece all'interno davvero l'attenzione sembra un paradosso, ma l'attenzione mediatica è scarsissima, si sa pochissimo di queste cose. In questo momento penso che il tema dei diritti umani sia centrale per un aspetto, ma tra virgolette allo stesso tempo anche l'ultimo dei pensieri degli iraniani. Abbiamo già detto, no, come le persone si sentano sotto assedio, prima di tutto economico, ma poi anche questa narrazione dell'avere un nemico sempre pronto ad attaccarti fa sì che davvero per 40 anni si sia vissuti con l'idea di essere sotto attacco. E quindi le varie figure, chiamiamole così in modo anche forse brutale, però proviamo a ragionare tra virgolette da iraniani, le varie figure che sono chiuse in questo momento in carcere con una grandissima violazione dei diritti umani, ecco, in questo momento quelle figure sono come il risultato, no, di questo sentirsi sempre sotto assedio, sempre minacciato. Quindi è difficile che in questo momento veramente le attenzioni del popolo, delle persone, non sono rivolte verso questi problemi. Sono come dire l'ultimo, no, gli ultimi problemi che vengono dopo una lunga lista che ha a che fare molto di più con la sopravvivenza, e anche con la sopravvivenza non soltanto del sé, ma anche proprio della sopravvivenza dello Stato iraniano stesso, della Repubblica Islamica stessa. Ci dobbiamo fermare brevemente, ma torniamo a parlare di Iran, ma anche insomma, un po' della situazione internazionale tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, sono con Sara e Jazzy questo pomeriggio, cittadina italiana e iraniana, antropologa, scrittrice, giornalista. È arrivata in Italia quando e come mai? Ma io in realtà sono arrivata in Italia un anno da una mamma però già italiana. I miei genitori si erano conosciuti a Torino perché mio padre studiava all'epoca negli anni 70 l'architettura e aveva conosciuto mia mamma in Italia, che appunto lei era italiana. Si sono sposati in Iran, sia in Iran che in Italia, hanno fatto il doppio matrimonio, poi hanno deciso di vivere in Iran. E si parla dell'anno prima della rivoluzione e quindi anche di una, diciamo, di possibilità per chi si laureava all'estero ed era iraniano, no? Di tornare in patria e poi poter insomma svolgere anche lavori altamente qualificati. C'era molto bisogno all'epoca di persone formatesi, diciamo, in Occidente, ed erano addirittura sponsorizzate, tra virgolette. C'erano varie borse di studio che lo Shah di Persia erogava anche, no? E c'erano anche dei buoni accordi tra Italia e Iran in quegli anni che permettevano di poter studiare in Italia con, insomma, delle cifre abbastanza contenute anche rispetto ad altri paesi europei. E poi dopo si aprivano delle porte, delle opportunità in Iran, e questo era quello che aveva intenzione di fare mio padre. E quindi, sposato con un'italiana conosciuta appunto negli anni dell'università, è tornato e aveva appunto il posto come professore appunto ad architettura all'università di Mashhad, che è la mia città natale. Dopo, quando sono nata io, è scoppiata la rivoluzione proprio in quei giorni. E quindi siamo tornati proprio a seguito di questa della rivoluzione, soprattutto perché, essendo mia mamma una italiana, per gli italiani in generale, per gli stranieri, erano giorni abbastanza pericolosi per chi era straniero, e quindi le avevano proprio consigliato di tornare in Italia, nonostante lei fosse residente in Iran. E quindi siamo poi tornati, ma io ero veramente molto piccola. I contatti con l'Iran li ha mantenuti, chiaramente avrà, immagino, anche molti parenti lì, e diceva che ci va periodicamente. Ci vado periodicamente perché i miei genitori sono tornati in Iran realmente dal 2012 e quindi dopo 30 anni in Italia sì, hanno scelto di tornare. Diciamo da pensionati, mio papà aveva questo desiderio, dopo 40 anni in Italia ha detto: ma adesso avrei voglia di godermi un pochino il mio paese, e sono tornati a vivere lì. Poi mi è capitato di, insomma, promuovere questi viaggi almeno una volta l'anno, quando non ci sono appunto i corsi eccetera, quindi il periodo estivo come guida diciamo esperta per la Kel 12 di National Geographic, e quindi ho accompagnato questi viaggi di turisti. Pandemia li ha veramente, intanto ha creato una sorta di, come dire, spartiacque di classi sociali. La differenza di classe sociale in Iran è molto più visibile rispetto che da noi, nel senso che lì c'è ancora proprio una sorta di divisione per spazi, no? E anche proprio per corpi, io direi, tra le varie classi sociali. C'è una distanza abissale. nonostante ci sia stato, diciamo, come dire, la creazione di una classe media in questi 40 anni, che prima non esisteva, quando c'era la monarchia non esisteva una classe media, adesso diciamo che in 40 anni è venuta fuori, però sta di fatto che c'è un abisso tra classi sociali. Ecco, allora si vive così, segregati i ricchi, tra virgolette, quelli delle classi più elevate, e invece costretti, tra virgolette, al lavoro e in presenza sempre, no? Chiaramente i più poveri. Quindi chi ha potuto permetterselo quest'ultimo anno si è chiuso in casa, ma quando dico chiudere in casa lo dico proprio in modo quasi, cioè, rispetto a un lockdown che abbiamo fatto qua in Italia, quello è stato veramente a oltranza e molto più rigido. Chi ha potuto ovviamente permetterselo, gli altri invece sono rimasti quasi sempre comunque a lavorare, quindi di fatto poi per esempio l'incidenza da pandemia lì in Iran è caratterizzata da un'età molto più giovane della nostra e soprattutto, no, quindi probabilmente anche da classi sociali molto più basse, no? E davvero questo fa vedere come in realtà il virus sì non ha confini, come abbiamo detto all'inizio, però poi di fatto certo che ha, come confini, dire, confini economici, no? A volte. Tra chi, certo, sicuramente sì. Nonostante tutte le prescrizioni, di fatto, insomma, siamo in una repubblica islamica, è un paese molto gioioso, quindi le persone si frequentano tantissimo, il ballare, per esempio, il suonare, ci si trova ovviamente non nei locali pubblici, ma all'interno delle case. No? Ecco, questo forse noi non ce l'aspettiamo pensando a una repubblica islamica. No, infatti è una delle cose che mi dicono i turisti, che rimangono sconvolti sicuramente dalla parte, tra virgolette, della storia, quindi le vestigia della Persia antica, che comunque fanno parte un po' dei classici tour, ma rimangono molto colpiti dalle persone, soprattutto dalle donne sicuramente, perché poi quando siamo in giro sono sempre le donne ad avvicinarci, a chiederci di fare una foto, a invitarci nelle case, quindi tante volte è capitato di essere invitati ai matrimoni, anche in 30, magari in gruppi di 30 persone, turisti. Ti senti molto ben accolto, lì devo dire che c'è molta cura degli spazi, per esempio, tutti rimangono molto colpiti dalla pulizia perfetta delle strade, dalla pulizia perfetta dei luoghi, no? E poi c'è molta cura, così come dello spazio, e direi il corpo, no? L'antropologia ci insegna sempre che lo spazio, il corpo in fondo sono quasi la stessa cosa, cioè lo spazio è un'estensione del corpo, noi trattiamo un po' lo spazio come trattiamo il nostro corpo, e lì devo dire che c'è una grande cura, molta cura per la bellezza, molta cura le donne tantissimo per la loro bellezza, fin troppo, nel senso che poi spesso si ricorre alla chirurgia estetica. Però veramente c'è questa attenzione, ed è un'attenzione fondamentalmente verso l'altro, perché uno dice sì, mi curo me stessa, curo il corpo, curo lo spazio, però in realtà sto curando l'altro, c'è molta attenzione in questo senso. Lei non usa il velo, no? Dalle foto che ho visto. Non uso il velo in Italia, ma lì ovviamente è obbligatorio, quindi sì, lo uso. Ah, ecco. Il velo è obbligatorio dal 1982, quindi da circa 4 anni dopo la rivoluzione è diventato obbligatorio. E sua mamma, che è italiana di origini, come si è abituata a questa situazione nuova? Mia mamma ormai sì, è abituata, e lei tra l'altro sì, perché a parte che lo deve indossare, ma poi lei in realtà andò a vivere in Iran, che aveva 19 anni la prima volta nel 74-76, e quindi a quel tempo tra l'altro lei aveva iniziato a studiare il persiano, e si era un po' innamorata di questo paese, di questa però cultura. Era un altro Iran, quello era un altro Iran, però devo dire che ecco la cosa, che il velo lo indossava, di nuovo lo indossavano le donne delle classi sociali più basse, quindi era difficile a loro togliere il velo, mentre invece il velo lo toglievano, ormai l'avevano tolto, tra virgolette, donne di una certa, soprattutto quelle istruite, urbanizzate, eccetera, quindi c'era già uno spartiacque all'epoca. Quando poi l'hanno, diciamo, reimposto, in fondo questo ci stava benissimo con la filosofia, no? Che aveva mosso la rivoluzione, che era, come dire, gli, tra virgolette, tradotto in italiano, che gli ultimi saranno i primi, no? Era un po' la rivoluzione degli ultimi, quindi questi ultimi dovevano farsi, tra virgolette, bandiera. E quale modo migliore di prendere un chiadore e dire ok, adesso ve lo mettete tutti quanti, no? Tutto questo veramente molto rivoluzionario e molto ideologico. Adesso mia mamma, il velo che si indossa adesso non c'entra nulla né con quello che si usava prima della rivoluzione né con quello degli anni della rivoluzione o degli anni 80. È un velo, se vi capita di vedere le foto anche su internet, è un velo veramente, come dire, quasi così un orpello, cioè un ornamento leggero, che si vedono tutti i capelli che escono, anzi sono quasi sempre, rimangono tutti sconvolti da quanto le donne siano succinte in realtà, da quanto si vedono tutte le forme, veramente è una cosa che colpisce molto questa, uno non se la immagina se non ci va. Grazie a Sara e Giazi che è stata con noi oggi pomeriggio, ci ha raccontato un pezzetto di Iran. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto della puntata. Ci risentiamo domenica prossima alle 14. Ciao.